A pane, burro, rock and roll, sono le 8 spaccate. Questa è la tua colazione preferita. Pane, burro e rock and roll. La migliore in circolazione. La tua colazione rock. Dalle frequenze di Rock FM, ancora buongiorno. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock. Benvenuti e benvenute. I nuovi amici e le amiche che si aggiungono nel corso della trasmissione. Iniziamo la seconda ora di quest'oggi. Come sempre è tempo di bilanci. Vi piace come inizio? Lo chiedo a Fricca, alla redazione. È tempo di bilanci per la seconda ora. Attendiamo le segnalazioni al 335 1 007 777. Che tipo di segnalazioni? Tutto quello che riguarda la possibilità di lamentarsi del Natale in arrivo. Oh, abbiamo deciso ufficialmente che lamentarsi è rock. Lamentatevi pure, noi siamo contenti. Sdoganiamo nuovi tipi di lamentele, ne siamo contenti di accoglierli. Mentre facevo questa piccola considerazione, sarà colpa della presenza di Frick Antoni in questa trasmissione. Sembra che la demenza stia prendendo piede anche da voi là fuori. Ringrazio questo amico che, mentre Rock FM programmava Always di Bon Jovi, commentava: ogni volta che sento questa canzone dei Bon Jovi mi viene in mente che se io e te, caro Ariele, fossimo uomo e donna, saremmo ancora insieme. Tuo Mario. Ciao Mario. Che ricordi, Mario. E l'altro invece, questo devo leggerlo per forza, di Marco, perché in tantissimi avete fatto questa segnalazione. Amici milanesi, in zona Garibaldi, un palazzo ha delle finestre accese che formano il classico triangolo dell'albero di Natale, tronco incluso. E il messaggio, giustamente, perché è scritto a pane, burro, rock and roll, si conclude così: casualità o dietro si cela un piano elaborato? È un piano elaborato, sicuro, Marco. C'è un complotto. Mama, we are all crazy now. Slade. Ow. Ow. Mamma, we are all crazy now. Ci fosse stato bisogno di spiegarlo, uno dice. Vabbè, ok. Gli Slade. 8 e 5 minuti primi, il mio momento preferito della trasmissione, ovvero il contatto con i radioascoltatori e le radioascoltatrici che ormai da 2 settimane si occupa delle vostre problematiche natalizie, di tutto quello che il baraccone natalizio si porta dietro. Da settimana scorsa abbiamo iniziato a sdoganare anche nuove categorie, abbiamo avuto amici ed amiche coraggiose che hanno parlato del proprio albero di Natale oppure del proprio presepe, ovviamente rock. Andrei ad affrontare un'altra grossa problematica che si porta dietro il Natale, soprattutto se avete dei vicini particolari. A raccontarci il suo problema è Bonci, 48 anni, dirigente d'azienda. Benvenuto a Pane, Burro e Rock and Roll, Bonci. Ciao Ariele, buongiorno. Buona giornata anche a te. Ciao, grazie. Allora, il nostro buon Bonci ha il classico problema di vicinato. Sì. Il vicino adora terribilmente il Natale, da quello che intuisco. Penso di sì, ma non da solo, anche con quello che abita sotto di lui, perché si sono messi d'accordo, presumo, perché sennò sarebbe impossibile costruire una cosa del genere. Cosa hanno costruito? Hanno costruito un gigantesco albero di Natale con tanto di vaso, di quelli che si disegnavano da bambini proprio, sì, che prende 2 piani, quindi sarà alto 5 metri, sì, ed è largo più del loro balcone, sarà almeno 4 metri di larghezza. La prima domanda che viene è come hanno fatto, rischiando la vita sicuro. Chi è che paga la corrente? Chi è che paga la corrente? Bravo! Il palazzo di fronte a te non dovrebbe fregare. Va bene, però. O dici che siete insieme? Non lo so, e poi spara luce giorno e notte. Io la prima notte che l'ho visto pensavo gli fosse preso fuoco la casa. Però secondo me hai dato una buona idea a tutti quelli che hanno dei vicini nel proprio palazzo. Quanto sarebbe fastidioso suonarli e fare la domanda: scusi, ma l'elettricità chi la paga? E spese condominiali o la pagate voi? No. È questo che sarebbe interessante. Poi non contenti, in basso gli hanno anche messo un'ulteriore serie di luci, sì, che simula, la base su cui appoggia anche il vaso, perché non si sono fatti mancare niente. Evidentemente potete capire che il nostro radioascoltatore Bonci questa cosa non va giù. Esattamente. Così, tanto per brutti rapporti col vicinato o perché proprio non ti va giù che questi hanno un albero di Natale di 5 metri illuminato davanti? Perché, cerco di dirla in modo gentile, penso che non si può sopportare un sopruso del genere. Hai ragione, bisogna combattere questa cosa. Bisogna trovare modo di spegnerlo. Allora, esatto, le situazioni erano due. O tentavamo di costruirne anche uno sulla tua facciata, ma sembra che non interessi. La cosa. No. Oppure tentiamo di spegnerglielo, dici? Spegnerlo. Allora, oscurarlo. È già capitato in questa trasmissione che qualcuno chiedesse aiuto ai radioascoltatori. Io ti avviso, li conosco i radioascoltatori, immagino già il tenore dei consigli che potrebbero darti. È per questo che mi rivolgo a loro. Sì, esatto. Rischio, fai conto, l'ultima volta ero abbastanza tranquillo perché colui che ce l'aveva chiesto espatriava il giorno dopo da Rotterdam. Sì, quindi, da Rotterdam, ricordo. Quindi era tranquillo. Tu poi ci devi vivere lì, quindi se ti beccano, poi ti beccano al volo. Noi chiediamo, quindi Bonci ha questo problema. Il vicino, in combutta con quello del piano di sotto, ha un albero gigante di luci. Multicolore. Bonci da qui al Natale glielo vuole spegnere. Sì, se possibile. La prima cosa che mi viene in mente è una bella cerbottana, però poi devi avere una bella mira, perché devi pigliargli tutte le lucine. Sì. Se pigliarle una per una non finisco per Natale. Però potrebbe essere anche divertente. Passi queste serate. Tanti amici con tante cerbottane. Esatto, e vi mettete lì, presa, potrebbe essere un'idea. Senti, fortuna che è multicolore questa cosa, multicolore, gira. Spara qualunque colore, gira, fa una roba da matti. Hai caso la finestra di camera dove dormi? No, per fortuna è quella della cucina, per fortuna è della sala. Se no resta illuminata a giorno anche di notte. Però in sala mi fa effetto ambilight dietro il televisore quasi, lo fa quasi da solo. Allora, amici e amiche da casa, se avete consigli da dare a Bonci, che non sia tirar giù il palazzo di fronte con la dinamite, per favore, perché non lo può fare, segnalatecelo e vediamo. Tu sul tuo balcone non hai niente, un alberello in casa? Un alberello in casa per mia figlia. Sì. Dai, su. La bimba. A sti poveri bambini, facciamoglielo sentire lo spirito natalizio, no? Così passa prima. L'avete fatto insieme? Sì. Ci hai messo su qualcosa di inquietante o no? No, guarda, soprattutto mia figlia, sai, poi adesso comincia a essere grande, quindi ci ha messo ci ha messo robe sue, foto di amici. Ah, tutto. Che tenere. Che tenere. Vasco, perché lei impazzisce per Vasco. Ma senti, la bambina non guarda con invidia l'albero di fronte? Cioè non ti chiede, papà, perché loro sì e noi no? Non lo so, la nasconde bene, se no, non lo so. In ogni caso, dovessimo riuscire a spegnerglielo, tu potrai guardare tua figlia e dirle... L'ho fatto anche per te. Gliel'abbiamo spento. Bonci, intanto qui succede di tutto. Non so cosa. Comunque adesso ho visto passando, ho visto un'altra bellissima cosa. Un appartamento avevano i babbi natali, non contenti, la scaletta gliel'hanno illuminata tutta. Alla faccia! Che sciccheria! Bonci, buona giornata, grazie per la segnalazione. Grazie a tutti. Vi faremo sapere cosa dicono quei folli là fuori. Aiutatemi. Ciao. Sente? Ah, sì, guardi, DJ Ariel, sento già in lontananza i campanelli della slitta. Ma mio caro Spadino, punta, direziona il nostro laserone verso la Lapponia. Laserone l'ha definito. Beh, in effetti è un marchingegno strano. Sente i primi frusci, è difficile connettersi con la Lapponia, il collegamento il più delle volte cade. Milano, chiama Lapponia, dovrebbe essere con noi Babbo Natale in persona, un'esclusiva del Natale Rock 2007, esatto, di Pane, Burro e Rock and Roll. Rock FM chiama Santa Claus. Milano chiama Lapponia, rispondi Lapponia. E Natale, ecco qua, Natale, sì, ma mi chiederò domani. A me questa introduzione mi lascia sempre così. Ciao Ariele. Buongiorno, ciao, Natale. Allora, buongiorno, dottor Natale. Va bene, allora, com'è, com'è? È sempre nervosello lei, sarà il periodo. Lascia stare che c'ho Rantolo che mi sta male. Rantolo, ricordiamo che è uno dei nani. Rantolo! Sì. No, l'aspirina effervescente nell'acqua, non in bocca. Guarda che questo, a star dietro a tutti i nani non è facile. No, scusate, c'è, che c'è Rantolo che mi ha preso 5 pastiglie di aspirina effervescente e le ha messe in bocca. Sembra uno schnauzer arrabbiato. No. Senta, Natale, lasci stare Rantolo. Che bello essere una delle figure. Babbo Natale. Una delle figure più grandi della storia. Un collegamento incredibile, io non ci credo. Babbo Natale, Gesù Bambino. Calma. Sì. Allora, voglio subito sfatare una roba, sì, perché uno pensa che poi alla fine è vero. Allora, Papà Natale, sì, non è Gesù Bambino da vecchio. Mi scusi, ma nessuno l'aveva mai immaginato. Sono due ditte diverse. L'avevo sentito dire, infatti. No, ha ragione a specificare. Io avrei una domanda, tanto per chiarire le ambiguità. La Befana e sua moglie? Uè, Ciccio! Pensa un po' agli affari tuoi, perché quella lì mi sta facendo una concorrenza spietata che viene avanti e indietro, quella scopa. Ce la scopa e va molto più veloce nel traffico, si infila nel traffico. Ah. Prova a andare in giro te con la slitta autorenne lì così. Ma sai quante volte sono rimasto fermo in tangenziale? Sì. No. E questa qua passa avanti e indietro con questa scopa. Non è la concorrenza reale. Dottor Natale, mi perdoni, io ho una curiosità. Ci sono dei regali particolari, sì. I divi del rock cosa chiedono? Cosa le chiedono di regalo? Quelle lì sono le soddisfazioni, perché comunque ti mettono in... perché loro c'hanno tutto, parliamoci chiaro, c'hanno le belle gnocche nel backstage, Ranto, butta quella aspirina. Lasci stare Ranto. No, mi sta facendo diventare matti, quella roba incredibile. Lasci stare Rantolo, pensi a noi. A proposito, Caccolo è rientrato? Caccolo adesso sta facendo una riabilitazione. Questo cosa no, c'è? È un altro problema. Torniamo alle rockstar, le grandi rockstar. Chi le avrà scritto questo Natale? Qualche indiscrezione, ci dica, dottore. Steve Vai. Grande chitarrista. Velocissimo, virtuoso della chitarra. Chitarrista. Frank Zappa lo definiva uno stuntman della chitarra. Un gran rompicoglione. No, come? Una rockstar di livello internazionale. È un rompiballe. Sai cosa mi ha chiesto quel cretino? Cosa? Una chitarra a 66 corde. Che per accordare ci vogliono 15 giorni. E per fare l'accordo di Mi ha bisogno di altri 3 chitarristi. Incredibile. Fortuna che lei può far avverare qualsiasi desiderio. A proposito, ragazzi, ma si regali qui, cos'è che vi devo portare? Aspetti che prendo la lista, l'ho lasciata di là, corro a prenderla secondo. Tienilo in linea, perché l'ho lasciata di là. Allora io ne approfitto, Papà Natale, per chiederle. Ce l'ho anch'io. Fai tu. Allora vado. Vai tu. Mi sento male. No, faccio io. No, ragazzi, pronto. Vai tu, Ario. No, è caduta la linea. Ma no, ma sto attacco satellitare è facilecca però, Dai, Spadino, non risparmiare sullo scotch, la colla, il nastro isolante. Io volevo chiedere le frequenze nuove per Rock FM. E beh, che c'è? Sleeping love. Jaggi Antic Pixies, la diretta di Rock FM fino alle 9 con l'Ariele, Freak, Spadino, la nostra redazione. Tra pochi istanti appuntamento con il test attitudinale di quest'oggi. Scopriamo al volo subito se siete dei rocker oppure no. Il numero di SMS è invaso da terribili consigli da dare al radioascoltatore Bonci. Li do più tardi però, per favore, anche perché adesso devo annunciare il nostro brano natalizio che è a rotazione, vi facciamo ascoltare ogni giorno. Mentre con orgoglio avviso il popolo di Rock FM che è finalmente pronto il calendario 2008, l'anno della svolta, curato dalla redazione di Pane, Burro e Rock and Roll, ma che vede nelle 12 mensilità anche la partecipazione dei nostri colleghi. Sono 12 copertine che hanno fatto la storia del rock, rivisitate da noi. Nel weekend è stato aggiunto un link su radiorockfm.com per poter dare una prima sbirciata a questo calendario. Nessuno me lo ha commentato, quindi un po' c'era delusione negli studi, perché ci aspettavamo qualche commento. Nessuno di voi l'ha visto? Andate a vederlo, radiorockfm.com. E se poi volete entrare in possesso del calendario 2008, l'anno della svolta, chiedetelo all'Ariele, è il consiglio migliore che posso darvi. Potete scrivermi una mail, ariel@radiorockfm.com, diteci dove siete, quanti siete, dove andate, lasciate un fiorino e prima o poi potremo riuscire a farvi arrivare il calendario 2008. Intanto buon ascolto, con buon Natale per Oroc, rilassatevi che dopo c'è il test attitudinale, eh? Non prendetelo con angoscia, se no poi date la risposta sbagliata e poi ci rimanete male. Caro babbo, babbo nel senso di Natale ovviamente, ti scriviamo perché vedi, qui il Natale non lo sente più nessuno. Dicono che è una festa commerciale, anche tu però sei un po' demodé, bisognerebbe lavorarci su. Se ti presenti in slitta, ok vabbè, ma quelle povere renne, tu pensa con una moto rombante, un giubbotto ripelle. Però nero, snellisce. Ci vuole un'idea geniale, Natale, ci serve qualcosa, facciamo un Natale rock. Buon Natale, però un Natale rock. Un Natale sfrenato. Buon Natale, questa volta che sia rock. Già che ci siamo, mi piacerebbe tanto avere la voce del cantante degli AC/DC. Dai, dimmi di sì! Le spalle impazzirebbero con quella barba bianca. Ehi, dove credevi d'andare? Se tutti scrivono alla concorrenza, non ti puoi lamentare. Quel capello lungo, quel castano che fa decisamente più rock, ti straccia già in partenza, allora sai che si fa un tatuaggio rock. Un abete! Ci vuole un'idea geniale, Natale, ci serve qualcosa, facciamo un Natale rock. Buon Natale, però un Natale. Invecchiare come Mick Jagger degli Stones, ah, sì, mi piacerebbe tantissimo, anzi tantissimo. Magari anche avere la centina con i numeri delle Groupies, se si potesse. Non fare quella faccia, dai. Lo sai, anche tu puoi essere un rocker se lo vuoi. Devi soltanto volerlo, Natale, ti serve qualcosa, facciamo una sola. Thank you. la domanda, 3 le possibili risposte, 2 i punti per la vostra patente da vero rocker se azzeccate. Questo cos'è secondo lei? Il famoso clou dei club. Il quiz. Esatto, il clou di pane, burro e rock and roll. Oggi andiamo a parlare di una cosa che sono certo la divertirà parecchio. Un sito internet, ovvero Twospair, pubblica una divertente raccolta delle 87 peggiori previsioni sul futuro mai fatte nel corso della storia. E che cosa hanno scoperto? Scopriamo per esempio che i dirigenti della United Artists nel 1964 scartarono un certo Ronald Reagan per ruolo del presidente degli Stati Uniti nel film L'amaro sapore del potere, sentenziando: Reagan non ha un aspetto presidenziale. Complimenti. Ah, perfetto, perfetto. Ricordo anche il dirigente di un'etichetta discografica che disse a Brian Epstein, manager sì. dei Beatles: signor Epstein, torni pure a Liverpool, in provincia in pratica, perché i complessi con le chitarrine hanno fatto il loro tempo, da lì a poco esplosero i Beatles. Abbiamo il caso anche di un ottinista, Alex Leith, presidente della società di aspirapolvere, che nel 1955 dichiarò al New York Times: gli aspirapolvere nucleari saranno probabilmente una realtà nel giro di 10 anni. Anche lui un chiaro veggente. Oppure, a contrario, segnaliamo il pessimista Wilbur Wright, celebre fratello Wright, che nel 1901, dopo un tentativo fallito di volare, disse a suo fratello Orville: ehi Orville, l'uomo non volerà per i prossimi 50 anni. E invece lui stesso ci riuscì 2 anni dopo. Bastava aspettare un attimo. Alcuni di queste peggiori previsioni sul futuro raccolte da questo sito Twospair. Occupiamoci di una previsione che ci riguarda. Infatti un articolo pubblicato sulla rivista Variety all'inizio del 1955 affermò, 2 punti. Ipotesi A: con quel ciuffo Elvis Presley non potrebbe piacere nemmeno a delle pensionate assetate di sesso. Oppure Variety nel 55 affermò: il rock and roll, per colpa delle sue radici blues, è un genere musicale che verrà ascoltato solo dalla popolazione afroamericana. Oppure infine Variety nel 55 sentenziò: il rock and roll, una moda passeggera che sarà passato di moda entro il mese di giugno. Fate la vostra scelta. Come al solito, la risposta esatta ve la diamo fra poco, la soluzione a poco dopo. They'd like to thank you for a wonderful year. We'd like to thank you for a wonderful year. Thank you for a wonderful year. Carry on. Look out for yourself.